non godrai sempre in pace lieto del tuo gioir, rivale audace. Orlando, ahimè, io son perduto. Rendi pur grazie al ciel che inerme sei, col tuo sangue vorrei incorporar quelle amorose erbette che a ridere invitasti al tuo godere. Non ti sbagli, masende, or siate meco, fugaci contenti. Impallidisci, tigre di crudeltà, sfinge d'inganni. Che leggere mano te lei, tu sei gelosa. Respiro, la germano, e l'amor mio, io sono ora. Ove trascorsi? Oh, come scalpro finge! Senti, mio ben! Sono una sfinge, una tigre! Vi aggiungi per tavolo d'amore qualche bel nome! E a tigre! E mentitor! Dove io sei con questo vano tu, timor geloso! Tra il perdono, tu suo Germano. Il tuo rival io sono. Poveri affetti miei, questa vi rende amorosa vergine, il cuore ingrato. Io le ginocchia tue supplice stringo. Chiara, piangi per lui. Rimira, io fingo. Egli t'offese, a me l'offesa tu. Vedilo che pentito te ne chiede perdono. Bella, perdona. Ti vesti di mia fe, caro, non sai che tu hai il mio cor, che tu sei l'idol mio. Oh, bellissima destra! Ella ti appegno di mia candida fede. Angelica! Il bianco sen riposo al tuo contento. Fingi pur, non lo vedi, poi che tormento. I begli occhi onde amor vibra le fatiche.